Capitolo VII di L'anno 3000, un sogno di Paolo Mantegazza. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Capitolo VII. Dirimpetto a Ginnasio si innalza severo e grande un gigantesco edificio composto di tre palazzi riuniti da una galleria comune e da giardini. Sul vestibolo di architettura greca si leggono queste parole: volere e potere, ma a patto di sapere. Maria lesse questo motto con sorpresa e con ammirazione, e volta Paolo gli disse: «Oh, quanta sapienza in queste poche parole! Mi pare che in esse riposta tutta la scienza della vita. Esse possono servire di pietra fondamentale all'arte di essere felici e a tutta la pedagogia. E chi le avrà pensate?» «Credo che le avranno pensate tutti quanti gli uomini di buon senso, da che il germe di tutte le grandi verità è riposto in ogni cervello ben organizzato. Ma chi le pronunziò per la prima volta fu un cittadino di Firenze, che visse verso la fine del secolo XIX, che fu deputato, sindaco della sua città ed anche ministro. Si chiamava Ubaldino Peruzzi e fu arguto, attivo, pieno di attico sale e di buon senso, e a provarlo basterebbero queste sante parole che oggi vediamo scolpite in caratteri d'oro sul palazzo della scuola». Al palazzo della scuola si sale per una larga scalinata alla cui sommità, proprio nel mezzo, si vede una statua colossale che rappresenta la scienza. Quella statua è fusa in elettro, metallo fatto d'una lega d'argento, di palladio e di alluminio, che vince in bianchezza la neve e in splendore supera tutti i metalli più sfolgoranti conosciuti nell'antichità. Quando il sole la illumina, brilla di tanta luce che appena si può guardarla, e nella notte splende ancor più, illuminata sempre dalla luce elettrica. La statua ha due grandi occhi fatti di diamante, che col sole e con la luce elettrica appaiono due stelle. Guarda verso il cielo sorridendo, come se spiasse il lontano orizzonte, e col braccio destro rivolto in alto tiene una fiaccola che, con l'artificio di diverse luci dei colori dell'iride, sparge tutto intorno come tanti raggi sfolgoranti. Il palazzo della scuola è in una piazza posta ad una certa altura, per cui quella statua veduta nella notte da ogni punto della città sembra un faro. Infatti è il faro di Andropoli, è la luce della scienza che dalla capitale del nostro pianeta sembra illuminare tutto il mondo. E non fu forse la scienza quella che guidò gli uomini alla ricerca del vero e del buono? E non fu forse la scienza che trasformò il selvaggio irsuto e feroce, preda delle belve e degli uragani, nell'uomo bello e potente, che guida il fulmine trafora i continenti e che lo ha fatto padrone assoluto del suo pianeta e gli fa sperare nell'anno 3000 di far sentire la sua voce ai suoi colleghi planetari? Paolo e Maria, entrati nel vestibolo del palazzo, seppero che i tre edifici dei quali è composto sono dedicati alle tre grandi branche dell'insegnamento: la prima scuola, la scuola media, gli alti studi. Vollero visitare la prima scuola accompagnati da uno dei maestri che si offerse loro come guida. Percorsero rapidamente le ampie sale ben ventilate, inondate di luce e di aria pura, e dove siedono gli scolaretti, uno separato dall'altro e seduti in comoda sedia col rispettivo scrittoio. I maestri circolano fra banco e banco, badando al compito assegnato, dando consigli e ammonizioni secondo il caso. In una delle scuole gli scolari stanno scrivendo. Non è la scrittura antica durata fino al secolo XXI, nella quale vocali e consonanti dovevano essere tutte quante rappresentate da una lettera, ma era una stenografia in cui le vocali erano tutte omesse o indicate da segni semplicissimi, per cui la scrittura era 10 volte più celere dell'antica. Il maestro che serviva di guida ai nostri viaggiatori disse loro che in quelle scuole elementari giungono i ragazzi dopo 6 anni e che quasi tutti hanno già imparato nelle loro famiglie il leggere e lo scrivere. Qui noi insegniamo praticamente la morale, l'aritmetica, un po' di storia, l'arte di esprimere i propri pensieri nella lingua cosmica, gli elementi di fisica, di chimica e di scienze naturali che possono riuscire più indispensabili alla pratica della vita. Nessun insegnamento religioso, perché ogni famiglia ha la propria religione e i genitori, secondo le loro idee, istruiscono i figliuoli in quella religione che hanno adottato. In questa prima scuola, ragazzi e ragazze studiano insieme e i maestri sono maschi e femmine senza distinzione, e i genitori però hanno diritto di scegliere un maestro o una maestra a loro piacimento. L'istruzione elementare non dura che 3 anni, gli scolari pagano quasi tutti l'insegnamento che è loro conferito. Non è che ai poverissimi che provvede lo Stato. Le lezioni non durano che 3 ore al giorno con 2 giorni di vacanza per settimana. Dalla prima scuola passarono i nostri pellegrini alla scuola media, che corrisponde alla scuola secondaria del mondo antico. Vi si insegna tutto ciò che serve alla cultura generale e l'insegnamento è diviso in 2 grandi branche, gli studi scientifici e gli studi letterari. Nessuna lingua antica, si studiano soltanto gli scrittori della lingua cosmica e nell'analisi critica delle loro opere si cerca di educare il sentimento del bello. La storia e la geografia si insegnano a tutti e formano lo scheletro dell'insegnamento. La filosofia è scomunicata da un pezzo, perfino nel nome, ed è stata sostituita dalla psicologia e dall'antropologia. Negli studi scientifici è data una parte maggiore all'insegnamento delle scienze naturali, delle matematiche elementari, della meccanica, della fisica e della chimica. Laboratori e officine sono annessi ad ogni insegnamento e gli scolari, che devono avere almeno 12 anni di età, completano il corso dei loro studi in 4 anni. Finito il corso, un esame molto rigoroso dà la patente di cultura generale e di questa si accontentano tutti coloro che, non volendo esercitare alcuna professione speciale, non hanno altra aspirazione che quella di essere uomini colti, di amministrare i propri beni e di perfezionarsi poi da sé seguendo liberamente le lezioni dei corsi superiori. La scuola media dà una patente letteraria e una patente scientifica. La prima è necessaria per chi voglia darsi alla professione di giudice o di scrittore, la seconda per chi voglia divenire ingegnere di qualunque delle tante branche dell'ingegneria o medico. La scuola degli alti studi ha corsi distinti per i professionisti e per la scienza pura e corrisponde all'università degli antichi. Non c'è obbligo di iscrizione per nessun scolaro e l'esame finale non è necessario che per coloro che desiderano un diploma professionale. Anche qui uomini e donne siedono sugli stessi banchi e dalla cattedra dettano lezione anche parecchie donne. Per essere professore nella prima scuola o nella media si deve avere una patente, che non si concede che dopo un esame lungo e molto severo. Per dettare lezione nell'alta scuola non si esige alcun esame, ma si devono presentare opere stampate. Le cattedre sono infinite di numero, perché ognuno che sia si dedicato a una ricerca speciale può aprire un corso sull'argomento prediletto, purché ne abbia fatto domanda al Consiglio Superiore delle Scuole, composto di 3 soli individui che rappresentano le 3 branche dell'insegnamento. Paolo e Maria ebbero voglia di assistere ad una delle tante lezioni che si facevano in quel giorno e, entrate a caso in una sala, videro annunziato l'argomento che tratterebbe il professore in quel giorno. L'annunzio diceva «Storia degli errori umani, influenza delle passioni sulla logica del pensiero». La lezione non durò che 1 ora e diede ai nostri viaggiatori un grandissimo diletto. L'oratore era molto dotto, aveva la parola facile, abbondante e con la sua arguzia talvolta mordace rendeva piacevole anche la più arida dottrina e la storia documentata degli errori umani. Tutto il corso di quell'anno e del successivo doveva essere dedicato alla storia degli errori umani, ma in quel giorno il professore dedicava la sua eloquenza all'esame dell'antica avvocatura e degli errori, nei quali era trascinata un tempo la ragione umana dai periti scientifici che i tribunali assegnavano alla difesa o all'accusa dei delinquenti. «Vi fu un tempo, diceva egli, di lontanissima barbarie, in cui, a forza di voler rischiare i problemi della colpa, a furia di voler portare troppa luce nei giudizi onde la verità ne uscisse limpida e chiara, si abbagliavano talmente gli occhi dei giudici da portarli alle sentenze più assurde. I giudici, che avrebbero dovuto essere soli competenti, avevano di contro un pugno di uomini trovati per strada, medici o ingegneri o commercianti, che non avevano mai studiato neppure l'alfabeto della scienza giuridica e che pure in ultimo dovevano sentenziare, assolvere o condannare. E i poveri giurati, innocenti nella loro ignoranza, paurosi della loro immeritata responsabilità, si volgevano ai periti tecnici, agli uomini di scienza, che avrebbero dovuto illuminarli, e la luce sovrapposta alla luce produceva invece tenebre sempre più dense. I periti della difesa dicevano «non vi è veleno nelle viscere della vittima», e i periti dell'accusa dicevano invece «vi è veleno». E i poveri giurati, davanti a così sfacciate contraddizioni, abbagliati e confusi dal colzo dell'eloquenza avvocatesca, dalle liriche invettive dei giudici, sballottati fra la scienza che negava da se stessa la propria efficacia con le flagranti contraddizioni, e perduti nel labirinto dei sofismi, dei paradossi e della dialettica, che cadevano sulle loro spalle come tanti proiettili in un dì di battaglia, finivano per abbandonarsi alla suggestione del sentimento, il più infido dei giudici nel campo della giustizia, e sentenziavano col cuore invece che con la ragione. E in ultima analisi non era la scienza giuridica, non la scienza dei periti che dava il supremo giudizio, ma era l'egoismo o la compassione. Il primo diceva ai giurati: «Quell'uomo ha rubato, lasciato libero potrà rubare ancora e mettere le sue mani anche nelle tue tasche, dunque in prigione alla galera. Quella donna è bella e giovane, ha peccato in amore. Quanto volentieri avrei diviso il peccato con lei. Poveretta, le sia data la libertà». E quando invece la compassione compariva o scuoteva le fibre sensibili dei giudici, era assolto il colpevole, quando la compassione per lui era più forte che per la vittima. Era invece condannato quando gli avvocati erano riusciti a far sentire più forte la compassione per la vittima. «Come vedete», diceva il professore, «era un problema di affinità elettiva, era una lotta del sentimento con la ragione e la povera giustizia andava sommersa troppo spesso in queste lotte molto disuguali. Ecco che cosa era la giustizia 10 secoli or sono. Ma non vogliamo essere troppo superbi noi altri uomini del secolo 31esimo, perché anche noi non sappiamo sempre disgiungere e separare nettamente il cuore dal pensiero nei nostri giudizi». La lezione, spesso interrotta da risate di approvazione, fu fragorosamente applaudita al suo fine e i nostri viaggiatori lasciarono il palazzo della scuola molto contenti della loro visita. Fine del capitolo 7, letto da Claudia Caldi.